Le sanzioni internazionali e l'emergenza. Boko Haram Reloaded. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Nella bunker di Katalunduz, del nostro soldato, si vive un'incline di valore memoria, sì. Cette action de Boko Haram. While the world is reeling from the coronavirus pandemic, the Trump administration has decided to intensify its sanctions against countries such as Iran and Venezuela. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Qui con me ci sono Elisabetta Fusconi e Filippo Aureggi, che è in console. 349-238-6666 è il numero per porre domande e fare commenti sui temi che tratteremo in questa puntata. Lo potete fare con SMS oppure con WhatsApp. Potete anche twittare. I due account da tenere d'occhio sono NessunLuogo24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Infine Facebook, la pagina è NessunLuogoElLontano-Radio24. Lì troverete anche la diretta video. Quest'oggi, oltre a raccontarvi quel colpo di coda, quel violento rigurgito di cui vi abbiamo dato conto nella puntata di ieri di Boko Haram, la formazione islamista estremista che dal nord-est della Nigeria ha sparso il suo veleno anche nei paesi vicini, faremo il punto su quella che è la situazione delle sanzioni internazionali. Tanti paesi colpiti da diversi tipi di sanzioni possono essere comminate dalla comunità internazionale, l'ONU in primis, oppure da singoli paesi. A pagarne le spese sono paesi come la Corea del Nord, l'Iran, il Venezuela, insomma una variegata specie di sanzioni e anche di target che subiscono le sanzioni stesse. Ma con l'emergenza coronavirus non è il caso forse di ridisegnare anche questa potente, efficace leva che alcuni stati utilizzano? Aspetto i vostri commenti in primis al 349-238-6666, ma come ogni giorno la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier internazionali. La prima notizia è appena stata battuta dalle agenzie statunitensi e ci fa sapere che il presidente venezuelano Maduro è stato incriminato negli Stati Uniti con l'accusa di traffico di droga. È un'inchiesta che arriva dopo un lavoro evidentemente lungo delle autorità federali di Washington, New York e Florida. Lo ha scritto il New York Times, aggiungendo che a brevissimo vi sarà o una conferenza stampa o qualcosa di meno formale, comunque una divulgazione di informazioni da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. E insomma c'è da scommettere che questa notizia farà fare una bella levata di scudi proprio in questa puntata da parte di alcuni attori internazionali, intendo. Proprio in questa puntata vi racconteremo di come è auspicato, soprattutto da parte dell'ONU, Antonio Guterres, come leader, come segretario generale, un ridisegnare il sistema delle sanzioni. Le altre notizie dei nostri dossier internazionali ha destato scalpore anche un profluvio di commenti di varia natura, l'arrivo da parte di militari russi sul territorio italiano. Mosca ha optato per una linea piuttosto goliardica, evidentemente, perché From Russia with Love è la frase che è comparsa su quasi tutti i mezzi del lungo convoglio militare che ha attraversato la penisola da Pratica di Mare a Bergamo. Qualcuno si è lanciato in una serie di, come al solito, complottismi di varia natura. La risposta militare all'esercitazione Defender Europe, no, è semplicemente, ma tra virgolette, il modo con cui Vladimir Putin intende dare sostegno all'Italia per far fronte a questa crisi sanitaria. Sono arrivati aerei cargo IL-76, medici dei reparti specializzati nell'esercito, unità mobili per il contenimento delle minacce batteriologiche, mezzi per la sanificazione del suolo e poi un numero imprecisato di tecnici. Naturalmente i detrattori della mano tesa da parte di Putin dicono sono spie, stanno facendo foto, non era il caso. Diciamo che dal punto di vista più ampio e più allargato si pone un problema. Intanto un paese che è sottoposto a sanzioni, che dà una mano a un paese membro dell'Unione Europea che ha messo sotto sanzioni la Russia stessa, e già questo è un paradosso, uno dei tanti a cui ci sta abituando quest'epoca di emergenza. L'altro aspetto interessante, mettiamola così, è che il contingente è guidato dal generale Sergei Kikiot, è il vice comandante del reparto di difesa chimica, radiologica e biologica. E fin qua direte voi nulla di strano, si tratta di un alto livello, un alto comandante dell'esercito della Federazione Russa. Ma è stato proprio quello che ha sostanzialmente scagionato Bashar al-Assad sull'uso delle armi chimiche contro i cittadini siriani. Il tutto sarebbe nato da una telefonata tra il premier italiano Giuseppe Conte e Vladimir Putin, avvenuta il 21 marzo. Secondo una fonte citata dal sito formiche.net, la decisione è arrivata a fatto compiuto. E insomma sembra che sia stata una mano offerta, quindi non tanto una richiesta. Se però a queste sommiamo Cuba e Cina, tutti vogliono aiutare Roma in questa crisi, si pone decisamente un problema più ampio, che è quella della cosiddetta diplomazia sanitaria o diplomazia della mascherina. Quando tutto questo sarà finito, evidentemente chi ha dato una mano e chi è venuto in prima linea in Italia, non dico che vorrà battere cassa, ma sicuramente si metterà in una situazione di privilegio, quantomeno diplomatico. Intanto al 349-238-6666 c'è già qualcuno che commenta quella che è la breaking news data dal New York Times. Mi meraviglio che diffondiate queste false notizie che costruiscono, immagino, gli americani su Maduro. Lo sanno pure i bambini che gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano. Vergognatevi. Così un ascoltatore che, senza nemmeno aver letto gli atti della Corte della Procura federale statunitense, nemmeno noi li abbiamo fatti e nemmeno il New York Times, si produce in questo caustico giudizio, bontà sua. Qualcun altro invece si spinge un po' di più sull'analisi. Maduro come Noriega, speriamo che non sia il prodromo a un'invasione in stile Panama 1989. Fatemi tornare ai nostri dossier internazionali, perché proprio pochi giorni fa vi avevamo dato notizia di quell'attacco islamista in Mozambico, alla città di Mocimboa de Praia, era l'inizio della settimana. Proprio ieri all'alba è stata attaccata anche la città di Kisanga. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AFP, che ha contattato direttamente fonti di polizia locale, il quartier generale delle forze dell'ordine è stato saccheggiato e distrutto durante questo attacco. Perché questi due attacchi così vicini nel giro di pochi giorni nel nord-est del paese? Qualche analista si spinge a dire che cosa? Che la regione settentrionale di Cabo Delgado, in realtà sulla carta una delle più povere, in realtà da pochissimo si è scoperto sono scoperti ricchissimi giacimenti di gas, e da tempo alcune compagnie straniere, soprattutto gli statunitensi con ExxonMobil, stanno lavorando a un progetto di estrazione del gas, pensate, valore di 60 miliardi di dollari. E qualcuno si spinge a dire appunto che questa insurrezione islamista e questo tentativo di presa delle città sia un modo per contendere la cosiddetta occupazione straniera. In Iran, o meglio negli Stati Uniti, perché a dare la notizia alla stampa sarebbero stati proprio i familiari di un agente, l'ex agente dell'FBI Robert Levinson, è stato l'ostaggio più a lungo detenuto nella storia americana dopo che era scomparso nel 2007 in Iran. Dico è stato perché, secondo molte fonti, nonostante il presidente Donald Trump ha detto non credo che sia morto, sarebbe morto in una prigione iraniana. La vicenda è piuttosto complessa, provo a riassumerla. Ex agente della CIA, dell'FBI, scusate, sarebbe stato successivamente assoldato dalla CIA per svolgere ulteriori indagini. Era il 9 marzo del 2007 nell'isola iraniana di Kish e fu arrestato proprio in quell'occasione. Da quel momento si sono sostanzialmente perse le tracce, l'Iran ha detto che non sapeva nulla. La cosa, addirittura il suo lavoro sotto traccia per la CIA è stato tenuto nascosto a lungo, e addirittura il governo americano ha pagato la famiglia americana per evitare la divulgazione di qualsiasi segreto. Se venisse in qualche modo confermata da fonti terze, sarebbe una bella gatta da pelare per l'amministrazione statunitense. Infine, l'ultimo dossier che andiamo a sfogliare in questa primissima pagina di Nessun Luogo è Lontano, torniamo a quel processo di adesione che coinvolgerà Macedonia del Nord e Albania. Ieri ci siamo concentrati un po' di più su Skopje, sulla Macedonia, ormai Macedonia del Nord. Quest'oggi vi faccio sentire la voce di Lindita Sela, giornalista della OCCRP, l'Organization for Crime and Corruption Project. È sostanzialmente un think tank di giornalisti, una associazioni di giornalisti che lavorano su giornalismo investigativo e soprattutto su quello che è il grande male dei Balcani, secondo molti analisti, cioè la corruzione. Sentite il suo commento sulla futura adesione all'Unione Europea dell'Albania. Il processo decisionale dei 27 paesi dell'Unione Europea per aprire dei negoziati con l'Albania è il processo decisionale dei 27 paesi dell'Unione Europea per aprire dei negoziati con l'Albania è atteso nel paese con non tanto euforia, imposto questo della crisi della pandemia di Covid-19. La decisione che sia Albania anche la Nord Macedonia hanno intrapreso riforme e sono pronti sta tendendo di essere donata ai cittadini albanesi isolati e che desiderano un po' di positività come un successo di governo albanese. In effetti, nulla è cambiato nella crisi politica nel paese, sia nel punto economico, dal momento che all'Albania è stato negato l'accesso di negoziati nel 2018 e nel dicembre 2019. Piuttosto, la decisione sta affrontando una crisi economica politica duramente del terremoto nel 26 novembre, in cui 51 persone sono state morte e migliaia di case sono state distrutte. Il paese sta affrontando una crisi politica. L'opposizione ha abbandonato il Parlamento e il primo ministro Edi Rama governa con un Parlamento controllato al 100% da lui. Al stesso momento, le riforme del sistema giudiziario sono state contestate, con le economie ambientate costituzionalmente delle imprese e dell'agricoltura, che rappresentano il 20% del prodotto interno e circa 40% dell'occupazione nel paese. Forse per questo motivo, penso che la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea abbia deciso di nuovo una chiara deviazione tra Albania e Nord Macedonia, che ha ricevuto l'approvazione senza alcuna condizione. Questa la sintetica fotografia di come gli albanesi e non soltanto la comunità giornalistica ma anche quella politica e la società civile sta prendendo la decisione storica dell'Unione Europea di dare avvio al processo di adesione. Intanto il presidente Nicolás Maduro Venezuela sta respingendo live praticamente su Twitter le accuse: c'è un complotto degli Stati Uniti e della Colombia per riempire di violenza il Venezuela. Come capo di Stato è mio dovere difendere la pace e la stabilità della patria in ogni circostanza. Poi qualcun altro che si spinge sulla questione degli aiuti all'Italia, dell'invio dei tecnici, dei militari russi. C'è qualcuno che dice: ma oltre ai privilegi per chi è venuto in Italia a dare una mano in prima linea saranno chiesti i danni a chi ha fatto sfuggire il virus, additando evidentemente la Cina. Qualcun altro che dice: Carlo da Torino, ci aiutano cubani, russi, cinesi, forse riempire di fango e deridere l'Europa per 18 mesi non è stata una buona idea. Allora, Filippo Reggi, questo era il nostro lungo dossier internazionale. A questo punto, dammi una mano, andiamo in Nigeria. Se fosse la pagina di esteri di un giornale, sarebbe un titolo a sei colonne. Il titolo che abbiamo scelto è Boko Haram Reloaded, è il ritorno di Boko Haram, quella milizia islamista che da ormai quasi decenni tiene sotto scacco, ha tenuto sotto scacco il governo nigeriano, ha sparso terrore e violenza in tanti paesi attorno al lago Chad, si è rifatta sentire con violenza. Ve ne davamo notizia proprio ieri con quel drammatico e sanguinoso attacco avvenuto a Boma sul lago Chad. Siamo in pieno territorio ciadiano, qualcuno ha detto 92 morti, qualcun altro si è spinto a dire almeno 100, 47 feriti, vari convogli militari distrutti, insomma un attacco notevole. Se non fosse che l'attacco è diventato duplice perché nelle ultime ore, facendo salire il livello dei morti, il bilancio dei morti a 150 militari, vi è stato anche un attacco nel nord-est della Nigeria. Vi faccio sentire le parole di Idriss Deby, il presidente ciadiano, che sostanzialmente sottolinea quello che è il più grave attacco nella recente storia ciadiana e che lo ha costretto ad andare anche sul luogo per cercare di capire cosa è accaduto, dare conforto alle vittime e in qualche modo anche ridare morale a un esercito che sta combattendo una guerra davvero difficile e per certi versi impari. Sentite Deby. Questa azione di Boko Haram qui segna una prima volta. Ho assistito a molte operazioni, ho guidato molte operazioni, ma nessuna nella storia aveva causato un simile danno. Ed è per questo che sono venuto sul posto. L'attacco più mortale mai subito dal nostro paese, è la prima volta che perdiamo un così alto numero di uomini, così avete sentito anche la voce rotta dall'emozione, drammaticamente spezzata, del presidente ciadiano. Vi dicevo, poche ore dopo questo drammatico attacco, un altro attacco nella località di Gorgi, stato nigeriano nord-orientale di Yobi, 47 militari nigeriani morti. L'attacco è avvenuto al passaggio di un convoglio militare. Quel convoglio era partito da Maiduguri, che è la capitale di quello stato del nord-est, e trasportava munizioni per quella che è la prima linea ormai del fronte. Si è spostata da Maiduguri, ma è ancora una prima linea particolarmente velenosa. Proviamo a fotografare in pochi secondi la drammaticità di questa guerra che dura ormai da tanti anni. Boko Haram means Western education is forbidden. It was formed by Muhammad Yusuf. He hated the West and was very critical of the government, which he saw as corrupt and un-Islamic. Islamist militants on the move in northeast Nigeria. It's rare footage of the group Boko Haram. The insurgents filmed this themselves. The target, the main military barracks in Maiduguri. Aikin da aka yi na makarantan Boko a garin Mamudo, wato cewa wai mu mun yi sulhu. Across Nigeria, Boko Haram has left a trail of death and destruction, all in the name of religion. But how can Islam, a peaceful faith, justify such brutality? C'est un choc au Tchad. Le pays a connu une nouvelle attaque de Boko Haram, la plus meurtrière contre son armée. Elle s'est déroulée lundi à Boma, dans le Lac, une province frontalière avec le Nigeria et le Niger. Des pertes inédites qui ont contraint le chef de l'État à se rendre sur place. Questo è quello che sta accadendo sulla nuova linea del fronte, quella sul lago Chad, un lago importantissimo. Questa storia inizia pochi giorni fa, ma il vero inizio risale al 2008. Siamo nella zona di Maiduguri, nord-est della Nigeria. Un nord più povero, senza le ricchezze petrolifere, maggioranza musulmana, non cristiana come il sud. Una Nigeria a due velocità, o meglio, due Nigerie diverse. Nel 2008 spunta un santone. Si chiama Muhammad Yusuf, inizia a infiammare le moschee, specialmente quella di Maiduguri. Anzi, in proposito, vi invito a dare un'occhiata ai nostri social. Sulla pagina Facebook di Nessun Luogo Lontano la redazione sta postando alcune delle immagini che ho scattato proprio un paio di anni fa in quella regione, a Maiduguri, e troverete un po' quella che è la polvere e il sudore di quella città che è stata sotto scacco per anni e ha vissuto per anni sotto il califfato a tutti gli effetti, e poi piano piano ne è uscita. Prima però torniamo a quel 2008-2009. Muhammad Yusuf infiamma le moschee perché? Perché sostanzialmente addita il governo centrale di Abuja di tutte le colpe del nord, un nord povero, soprattutto agricolo, ripeto, non ha il petrolio, la popolazione è emarginata. E allora inizia a fare proseliti, e quei proseliti piano piano iniziano a prendere le armi, soprattutto contro la polizia, perché la polizia è molto spesso accusata di esazioni, di corruzione, e se la prende soprattutto coi giovani. Nel 2009 Muhammad Yusuf viene arrestato. Ci c'è un video, ci sono anche delle foto che lo ritraggono ammanettato mentre viene interrogato. Ecco, la foto successiva di questo racconto fotografico mostra Mohamed Yusuf con le mani legate dietro la schiena, morto e riverso per strada. Esecuzione extragiudiziale da parte dell'esercito nigeriano. Il leader di Boko Haram, di questa setta che miscela una visione distorta dell'Islam con rivendicazioni delle classi più povere e riesce anche a adescare tanti giovani, finisce in quel momento. È Abubakar Shekau, il suo braccio destro, che prende le redini di questa organizzazione. Il nord povero e emarginato, ecco, lui è il grande difensore. Anche l'esercito evidentemente fa la sua parte con le violenze e anche alcuni governatori del nord soffiano sul fuoco. E così Boko Haram, da piccola setta religiosa, diventa una formazione estremista e poi addirittura tra i nemici numero uno della comunità internazionale. Lo diventa nel 2011, è l'estate, ad Abuja c'è un attacco bomba alla sede ONU che fa decine di morti. In quel modo Boko Haram si impone alla ribalta internazionale. La maggioranza però delle vittime di Boko Haram sono musulmani. Allora a quel punto il presidente Goodluck Jonathan, ritenuto poi incapace, a lui succede Muhammad Buhari, il nuovo presidente nigeriano. Cambia totalmente strategia, cambia tutti i vertici militari del nord, accusati di collusione proprio con le milizie di Boko Haram. Manda soldati e ufficiali dal sud e lì cambia tutto. Si forma addirittura una joint force con Nigeria, Camerun, Niger e Chad. Poi vi sono altri eventi, lo ricorderete, nell'aprile del 2014 il rapimento delle 276 ragazze a Chibok, quello che ha fatto inalberare la comunità internazionale. Persino Michelle Obama, all'epoca First Lady, iniziò a twittare per cercare di salvare le ragazze. Comunque dicevo, per ben due anni Maiduguri, nel cuore del nord-est della Nigeria, diventa a tutti gli effetti un califfato. Poi la nuova offensiva di Buhari, Boko Haram sostanzialmente scappa e si nasconde nell'impenetrabile foresta di Sambosa. E lì la storia si collega alle recentissime vicende che vi abbiamo raccontato qui nel suo luogo lontano. Ricordate quando con Francesco Strazzari ponemmo l'accento su quelle milizie di autodifesa che si stanno formando in Burkina Faso, in Sahel, per difendersi dagli attentati dei terroristi? Ebbene, proprio a Maiduguri, con il collega Gianni Rosini, un paio d'anni fa abbiamo incontrato la compagnia di Maiduguri, fatta da civili che si armano. Vedete le foto sui social, con macete, con corde, con fruste, qualcuno ha un fucile artigianale. Si addestrano, solo pochissimi di loro, poche decine, vengono anche addestrati dall'esercito nigeriano, ma costituiscono, grazie all'unione, la vera prima linea di sfondamento contro le linee di Boko Haram. In chiusura, l'ultima annotazione è questa. Boko Haram è una realtà molto fluida, si è affiliata recentemente anche all'ISIS. Dopo l'attacco di cui vi ho dato conto in Mozambico e la recrudescenza in Sahel, il rischio che molti analisti paventano è questa franchising del terrore nell'Africa nera. L'ISIS ormai è quasi scomparso dal Medio Oriente, potrebbe riaffacciarsi in maniera prepotente in zone che già stanno dando humus fertile. 349-238-6666 per voi. Adesso una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Dopo aver sfogliato i nostri dossier internazionali abbiamo fatto un piccolo focus sul rigurgito di violenza che è arrivato da Boko Haram. Proprio la fazione legata a Abubakar Shekau sarebbe causa di quei due attacchi mortiferi, uno in Nigeria, l'altro in Chad, 150 militari morti. Ricordo che Boko Haram si è distinto in due fazioni diverse, una legata all'ISIS e l'altra saldamente ancora nelle mani di Abubakar Shekau, quel leader che è stato dato morto per tante, troppe volte e ogni volta ritornava con messaggi audio sempre più benefici. È il momento di girare pagina, lo faccio tra pochissimo, non prima di aver dato conto di un po' delle vostre voci al 349-238-6666, lo dico in senso metaforico, non mandatemi messaggi vocali ma leggo volentieri i vostri commenti. Qualcuno torna al capitolo militari russi, per farsi togliere le sanzioni, la Russia non si fermerà con gli aiuti solo all'Italia, ma andrà anche in Spagna, Francia, Germania. E poi fa una domanda che potrebbe essere un ottimo approfondimento nei prossimi giorni: con molte attività europee e americane rilento o ferme, traffico di merci mondiali dimezzato, non sarà più semplice per l'intelligence internazionale monitorare lo spostamento di armi? Beh, i traffici legali al tempo del coronavirus, quello davvero potrebbe essere un ottimo spunto. Voltiamo pagina, dicevo. La discussione che vi propongo, il dibattito che vi propongo in questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, ha a che fare, parte dal coronavirus, ma ha a che fare soprattutto con le sanzioni. Perché? Perché l'invito piuttosto fermo è arrivato da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Sentite la sua voce di poche ore fa. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. Così Guterres, che aveva chiesto un immediato cessate il fuoco in tutti i conflitti in tutto il mondo, perché ha detto il virus non si ferma certamente alle frontiere. Non solo, ha parlato di un piano di guerra in tempi di crisi umana e ha detto anche, per favore, diamo uno stop anche alle varie sanzioni. Oggi peraltro si sta riunendo il G20, ovviamente virtuale, 5.000 miliardi di dollari di liquidità da iniettare nell'economia, un piano internazionale di emergenza. Gutierrez, lo dicevo, ha incoraggiato soprattutto a rimuovere le sanzioni a quei paesi che potrebbero soffrirne per ciò che riguarda l'afflusso di forniture sanitarie essenziali e all'assistenza medica. Questo, ha detto, è il momento della solidarietà e non dell'esclusione. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Marco Pertile, docente di diritto internazionale e direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento. Professor Pertile, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, come al solito, professore, ricorriamo alla sua conoscenza per cercare di mettere dei punti fermi. Il segretario generale Guterres ha detto togliamo le sanzioni. È vero anche che però esistono diversi tipi di sanzioni, no? Da quelle multilaterali a quelle decise univocamente da un unico Stato. Ci aiuta a capire in che modo anche le sanzioni possono danneggiare questi sforzi congiunti, evidentemente, contro il coronavirus? Ma le sanzioni di per sé non riguardano direttamente il materiale sanitario, il materiale medico, però è indubbio che le sanzioni possono mettere in ginocchio l'economia di un paese, magari colpendo settori chiave come le esportazioni di risorse, come le risorse petrolifere, o magari congelando i beni di un paese all'estero. E questo in effetti poi impedisce una risposta efficace di fronte alla pandemia. Sì. Un altro aspetto molto importante è che alcuni regimi sanzionatori hanno degli effetti extraterritoriali, vale a dire le imprese di paesi terzi, per il timore di finire a loro volta nelle liste delle sanzioni, impediscono di entrare in ogni forma di transazione commerciale col paese oggetto di sanzioni. Sì. Questo di fatto paralizza proprio la vita economica di questi paesi. Appunto, il timore di perdere l'accesso al mercato finanziario americano, che è il caso sostanzialmente dell'Iran, ecco, per dare un esempio molto concreto, caso, se non erro, è il ecco. caso dell'Iran, che riguarda anche il Venezuela, riguarda anche la Corea del Nord, quindi sono situazioni che magari colpiscono paesi che possono avere problemi già di tipo economico indipendentemente dalle misure restrittive adottate. Sì. E però indubbiamente la presenza di un regime sanzionatorio aggrava la situazione economica di quel paese. Sì. Professor Pertile, com'è possibile, abbiamo capito ospitandola in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, nell'edizione estiva, il diritto internazionale funziona finché gli attori internazionali decidono che esso stesso funzioni. Com'è possibile che anche attori molto prepotenti, prepotenti in senso lato evidentemente, non è un giudizio morale, come gli Stati Uniti, possano avviare politiche sanzionatorie senza che nessun altro nella comunità internazionale riesca a mettere un freno? Ma il tema delle sanzioni unilaterali è un tema molto discusso. Da questo punto di vista si osserva da un lato che un paese è libero di commerciare con chi crede e che quindi non c'è di per sé un obbligo di intraprendere delle relazioni di tipo commerciale. Dall'altro però gli effetti extraterritoriali di queste sanzioni su altri paesi sono particolarmente discutibili, su questo, su questo non c'è dubbio. È importante capire di fronte a un fenomeno globale come la pandemia, che può diventare molto difficile giustificare misure unilaterali di questo tipo. Sì. Da questo punto di vista mi pare molto, molto interessante l'affermazione del segretario generale, che afferma che la capacità del mondo di reagire alla pandemia è la capacità del sistema sanitario più debole. Finché appunto di fronte a un fenomeno globale c'è un sistema sanitario incapace di reagire, non ci libereremo mai della pandemia. Quindi è possibile che giustificare misure unilaterali di questo tipo diventi quasi impossibile di fronte ad un fenomeno così, così importante. Quindi credo che possa cambiare anche la sensibilità politica da questo punto di vista. Poi entreremo, professor Pertile, col prossimo ospite su quella che è la sensibilità più prettamente politica. Ripeto, la voce che sentite è quella di Marco Pertile, che insegna diritto internazionale all'Università di Trento e direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali della stessa università. È possibile, allora, stiamo cambiando un po' l'hashtag in questi giorni, in questo programma, professor Pertile, da stress test, coronavirus o illuminatore di fragilità, a opportunità. È possibile che il paradigma delle sanzioni internazionali venga ridisegnato dall'opportunità coronavirus? Le sanzioni hanno subito molti cambiamenti nel tempo, quindi non sarebbe la prima volta che cambiano le modalità con cui le sanzioni vengono adottate. Mi limiterei a dire che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha già ritenuto che un'epidemia potesse essere una minaccia alla pace, l'ho fatto nel caso di Ebola. Sì. Qui le dimensioni del fenomeno sembrano davvero, davvero più estese. Sì, e quindi, senza dubbio. E quindi è possibile che membri del Consiglio di Sicurezza trovino in forte imbarazzo di fronte all'adozione di sanzioni unilaterali e di fronte però allo stesso tempo ad una pandemia che assume le caratteristiche anche della minaccia alla pace, che quindi ridiscuta completamente gli equilibri. Certo, e questo potrebbe anche portare a, come dire, anche ridefinire quel gioco incredibile di veti incrociati insieme al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che tante cose ha bloccato e altre evidentemente invece ne ha agevolate. Questo era il piano strettamente giuridico. Io ringrazio tantissimo Marco Pertile, insegna diritto internazionale, direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento. Professor Pertile, grazie mille, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, buona continuazione. Allora, il professor Pertile citava fra i vari casi di scuola, per così dire, di sanzioni particolarmente pesanti, il caso del Venezuela. E ovviamente il Venezuela, con quelle accuse che arrivano dagli Stati Uniti al presidente Nicolás Maduro, adesso è sotto i nostri riflettori. Fotografiamo brevemente che cosa vuol dire Venezuela più sanzioni. Marzo 2015. Il presidente americano Barack Obama firma un ordine esecutivo in cui dichiara il Venezuela una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ordina misure sanzionatorie contro 7 alti funzionari venezuelani. I loro beni vengono congelati e i 7 funzionari non possono più lasciare il paese. La decisione del presidente americano è una risposta alla violenta repressione delle proteste scoppiate in Venezuela nel febbraio precedente, che aveva causato decine di morti e l'arresto dei leader delle opposizioni. Nel 2017 anche l'Unione Europea impone ulteriori sanzioni al regime e le misure vengono incrementate con la presidenza di Donald Trump. Il 28 gennaio 2019, l'allora consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton annuncia l'estensione delle sanzioni alla compagnia petrolifera statale venezuelana, con l'obiettivo di condurre il presidente venezuelano Nicolás Maduro alle dimissioni. Vengono congelati i fondi della società negli Stati Uniti e viene bloccato l'export di greggio verso gli Stati Uniti. Il danno all'economia venezuelana è stimato in oltre 11 miliardi di dollari. We're going to announce sanctions against Petróleos de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA, as it's known by its Spanish acronym, the state-owned oil monopoly. Bloccato anche l'export di oro venezuelano verso gli Stati Uniti, così come le attività finanziarie. Il 17 aprile 2019 anche la Banca Centrale del Venezuela è stata aggiunta all'elenco degli organi venezuelani sottoposti a sanzione da parte di Washington. mentre altre sanzioni contro il regime di Caracas sono state applicate anche da Messico, Canada, Panama e Svizzera. Questa è la drammatica fotografia che ci arriva dal Venezuela, crisi economica, le sanzioni, adesso anche il coronavirus e adesso ci si mette pure questa taglia, è notizia abbattuta adesso dalle agenzie, da 15 milioni di dollari per l'arresto di Maduro, così il Dipartimento statunitense sta offrendo questa corposa cifra a chiunque darà informazioni utili per arrestare il presidente venezuelano. State con noi, andiamo a sentire la viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, proviamo a tirare un po' le somme dopo aver messo i punti fermi dal punto di vista del diritto internazionale. L'invito di Antonio Gutierrez è stato molto chiaro: attenzione, le sanzioni vanno tolte. Chiaramente vi saranno delle resistenze politiche, ma la pandemia è un'emergenza globale. È interessante la notazione che faceva il professor Marco Pertile. Il sistema sanitario più debole, ecco, è quello che, sul quale dobbiamo concentrarci, perché ne basta uno, la pandemia globale, per far saltare la delicata macchina che sta cercando di combatterlo. E certamente le sanzioni non aiutano. Così rispondo a Luca, un ascoltatore che scrive: le sanzioni economiche vengono comminate per motivi ben precisi. Se questi motivi sussistono, perché eliminarle? Mia personalissima opinione, gentile Luca, perché esistono altri motivi che sono preponderanti, è una questione di priorità e in questo momento evidentemente il mondo deve reggere l'impatto di questa crisi, per cui alcuni bracci di ferro politici forse per il momento possono aspettare. Chissà se dalla mia stessa opinione. Vittorio Emanuele Parsi dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano. Professor Parsi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, gli ascoltatori. Ecco, a proposito di ascoltatori, professor Parsi, non so se vuole aggiungere qualcosa, diciamo, alla scala di priorità. È d'accordo che questa pandemia deve far rivedere tutte le priorità della grande attualità internazionale? Penso che dovrebbe, l'avete detto voi nella vostra scheda, cioè, gli Stati Uniti oggi hanno messo addirittura una taglia su Maduro, che è come dire usare il carico, visto che le figure non bastavano a briscola nei confronti di Venezuela, per cui attendersi un atteggiamento più ragionevole dall'amministrazione Trump mi sembra estremamente difficile. Allora, iniziamo con del sano ottimismo, professor Parsi, su questa prima ricognizione che faremo. Sono ironico, evidentemente. Però mi preme solleticarla su un aspetto. Coronavirus può essere un'occasione da questo punto di vista, non soltanto ridisegnare quei meccanismi sanzionatori, ma ridisegnare gli equilibri a livello internazionale. Lasciamo stare l'esempio adesso dei 15 milioni di dollari, perché questo è davvero un benchmark negativo, credo, insuperabile. Sì, potrebbe, comunque sono d'accordo con lei, potrebbe essere l'occasione per cercare di ridefinire un attimo il quadro della situazione, anche perché, parliamoci chiaro, le sanzioni, anche quelle cosiddette mirate, poi finiscono per essere estese mano a mano perché non funzionano mai abbastanza e colpiscono comunque innanzitutto per ultimo il regime. Le immagini, un regime che è sottoposto a sanzioni per motivi, diciamo così, perché fa delle cose sbagliate, perché si comporta in maniera eccessivamente dura con la popolazione, quando vede diminuire le risorse, l'ultima cosa che fa è sacrificare le risorse che gli servono per mantenere il controllo del potere. Quelle sono le ultime che vengono sacrificate, per cui necessariamente prima viene sacrificato tutto il resto. Sulla pandemia, io credo che una cosa, intanto rispetto a quei ragionamenti che venivano fatti ancora un mese fa, in cui si diceva ma sì, così la Cina in qualche modo si dà una regolata e questo giocherà a favore degli Stati Uniti, già osservavamo che insomma era evidente che un rallentamento cinese avrebbe avuto conseguenze sull'economia mondiale e questo avrebbe prodotto danno per tutti. La pandemia in confronto all'aspetto meramente economico è ancora più gigantesca, per cui sicuramente avrà conseguenze su tutti. Che questo modifichi la gerarchia, diciamo così, tra gli attori solo perché c'è la pandemia, solo come effetto della pandemia, non è necessariamente detto. Dipende da come gli attori giocano. Lei ha visto gli Stati Uniti giocare fino adesso malissimo dal punto di vista della leadership sul sistema, i cinesi recuperare rapidamente o tentare di recuperare rapidamente la posizione pessima che avevano all'inizio come responsabili con il loro silenzio di aver favorito la diffusione del virus, dei russi piuttosto che appunto i venezuelani, non per caso i cubani, cioè tutti attori che sono stati o sono sottoposti a sanzioni, che approfittano della possibilità di dare più valore anche politico a un gesto che è anche sicuramente intimamente generoso come quello di aiutare chi è più in difficoltà, perché sanno che in questo momento l'aiuto risuona nel deserto dell'egoismo intraoccidentale. Sì. E alcuni ascoltatori, professor Parsi, sono assolutamente della sua stessa opinione. C'è chi punta il dito, per esempio, contro la Germania, che non ha fatto abbastanza. C'è qualcun altro che ci scrive addirittura da Caracas: l'aggressione americana è una violazione dei diritti umani, la taglia su Maduro è ridicola. Qui si è adottato un protocollo antivirus che adesso funziona, inoltre Guaidó non esiste. Vabbè, sta l'ascoltatore, credo che stia mescolando anche una serie di aspetti un po' diversi. Col professor Vittorio Emanuele Parsi, relazioni internazionali, volevo toccare un altro punto che ha a che fare con la leadership. In queste puntate in Nessun Luogo Lontano abbiamo sottolineato come finché la barca va è facile tenere il timone, quando grosse ondate, quando la tempesta va a travolgere il galeone, lì si vede chi è un bravo comandante. Ecco, la leadership mondiale dovrebbe essere credibile, autorevole e inclusiva. Chi secondo lei in questo momento può recitare questo ruolo di credibilità, di autorevolezza ed anche di inclusività? Non vale citare l'ONU ovviamente, perché è un grande organismo sovranazionale che io credo che poco potrà in questa grande crisi. Allora, al momento io non ne vedo, ma non ne vedo, le dico perché, perché le attuali leadership non sono state selezionate su questo tipo di sfida. Questo tipo di sfida gli economisti, gli psicologi parlano spesso del momento nero, no? Nella storia di volte il cigno nero che si sbatte in faccia. Allora, professor Parsi, la linea non è ottima, proviamo a richiamarla perché la stiamo perdendo. Il ragionamento mi sembra molto interessante. Io ne approfitto per darvi conto di una breaking news battuta dalle agenzie ANSA AFP, Agence France Presse: la Cina chiude le frontiere agli stranieri sottoposti a visto, che rappresentano peraltro la stragrande maggioranza, l'hanno riportato i media di Stato. Fra pochissimo recuperiamo il collegamento col professore Vittorio Emanuele Parsi. Nel frattempo, allora, visto che abbiamo citato anche la Corea del Nord, approfittiamone per fotografare brevemente qual è lo stato delle sanzioni in uno dei paesi che forse è il più impenetrabile al momento sulla faccia della terra. La Corea del Nord, che il 21 marzo scorso ha di nuovo effettuato un test con due missili balistici a corto raggio, costituisce un caso da manuale del meccanismo delle sanzioni internazionali. Da quando il regime di Pyongyang ha avviato il suo programma nucleare nel 2006, la Corea del Nord è stata oggetto di numerose sanzioni internazionali, applicate sia da singoli stati che da organizzazioni internazionali. Tra il 2006 e il 2017, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel quale siede un alleato tradizionale di Pyongyang come la Cina, ha comunque approvato 9 diverse risoluzioni volte a colpire le ambizioni militari e l'economia nordcoreana. Se le prime sanzioni comprendevano un embargo sempre più esteso sugli equipaggiamenti militari, l'ONU ha progressivamente preso di mira le esportazioni di prodotti come carbone, rame, nickel e zinco e le importazioni di risorse come greggio e gas. Il Tesoro americano, nel corso degli anni, ha congelato diversi conti bancari disseminati in giro per il mondo, dietro i quali si nasconderebbero i loschi affari dei gerarchi del regime nordcoreano. Ma si teme che le sanzioni più generali possano contribuire a indebolire ulteriormente la popolazione del regime più isolato del pianeta, già colpita da una gravissima carestia negli anni 90. E questo è un altro caso di scuola, il regime nordcoreano. Abbiamo recuperato invece la linea col professor Vittorio Emanuele Parsi, che stava traducendo un concetto notevole, perché sostanzialmente dice, professor Parsi, ma mi interrompa se mi sbaglio, la leadership mondiale politica è venuta su magari a guerre, a conflitti, eccetera, ma mai a pandemie. Quindi emergenza vera, quindi non sono preparati, e questo è il problema. Sì, esatto, non è stata selezionata su questo, qui probabilmente c'è una difficoltà maggiore. Che non significa che non possa trovarsene una. Le faccio un esempio molto, molto semplice, anche magari sbagliato, nel senso che non è detto che sia così. Ma a novembre ci sono le presidenziali americane. Tutti noi speriamo di essere fuori dalla pandemia nella sua fase più drammatica per novembre, sì. Ma stiamo anche dicendoci che potrebbe essere molto lungo il processo. Allora già un cambio di presidente con una corsa presidenziale da qua a novembre, che è influenzata da un tema come questo, potrebbe consentire al presidente nuovo, semplicemente perché ha dovuto confrontarsi nella sua campagna elettorale con questo problema e con la latitanza di Trump, di avere una politica diversa e più inclusiva. Mi spiego. E così questo può succedere anche laddove ci fossero alternanze per la leadership ravvicinate, ma non che avvenissero adesso, perché adesso sarebbe impossibile, certo, giocare la partita politica, certo, e tengano conto di da dove siamo usciti, comunque ne siamo usciti. Perché se anche a novembre la pandemia sarà finita, le conseguenze economiche, sociali e politiche di questa pandemia dureranno probabilmente anni. E starà a noi cogliere, come lei diceva giustamente, l'opportunità per trasformare i fondamentali del sistema, oppure semplicemente tirare a campare fino alla prossima pandemia, fino alla prossima crisi climatica, fino al prossimo innalzamento degli oceani, o quello che sia, o la prossima crisi migratoria. Chiarissimo. In sostanza, la vecchia leadership mondiale è cresciuta con un'educazione sentimentale politica che forse, per come stanno cambiando i tempi, come sta cambiando il mondo, è ormai inadeguata. Faccio mio questo pensiero del professor Vittorio Emanuele Parsi, che ringrazio per essere stato con noi. Professore, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, manca pochissimo, 349-238-6666, un ascoltatore che mi attacca, dice: pur di criticare Trump, difendete pure Maduro, allucinante, quando le sanzioni le metteva Obama, ma l'abbiamo detto, gentile Giacomo, l'abbiamo detto, e qua non è, le sanzioni attaccano la popolazione civile, e quello è il punto, e in un momento di emergenza da coronavirus, la mia personalissima opinione è che le sanzioni andrebbero tolte, perché non puoi strozzare l'economia in queste situazioni. Detto ciò, quello che si può fare è udire una parola. L'usuale preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, a voi per essere stati all'ascolto, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.